Nei giorni della rosa e del gelsomino, quando si spezza il digiuno, ci sono i fiori, il vino e l'amato che mi abbraccia. In questi giorni diventa mio servo il sovrano del mondo. Non c'è bisogno di candele per l'incontro di stanotte. Che la luna è piena stanotte e risplende nel suo volto. Ascoltiamo le note melodiose del flauto e della lira. E seguono i miei occhi il rubino delle labbra, il giro della coppa. Non profumate la stanza, affondo le narici nei suoi capelli. Nei giorni della rosa e del gelsomino, quando si spezza il digiuno, ci sono i fiori, il vino e l'amato che mi abbraccia. Non offritemi dolci, che muoio dalla voglia di baciare le sue dolci labbra, finché dimorerà l'oro d'angoscia nello sfacelo del mio cuore. Casa mia sarà sempre il vicolo di ogni perdizione. Di quale vergogna mi parli se questa è la mia gloria? Nei giorni della rosa e del gelsomino, quando si spezza il digiuno, ci sono i fiori, il vino e l'amato che mi abbraccia. E seguono i miei occhi il rubino delle labbra, il giro della coppa. Non profumate la stanza, affondo le narici nei suoi capelli. E perché mi chiedi della gloria se non ho alcuna vergogna? Siamo folli e liberi quando beviamo vino e giochiamo agli sguardi. Non parlate male di me alla buon costume. Anche il cuore cerca un piacere senza fine. E perché mi chiedi della gloria se non ho alcuna vergogna? Siamo folli e liberi quando beviamo vino e giochiamo agli sguardi. Hafez, non restare mai senza il vino e un ragazzo. Nei giorni della rosa e del gelsomino, quando il digiuno si spezza. Così il mondo adesso si piega ai miei desideri. Ora il mondo soddisfa i miei desideri. Lo stupore mi ha bruciato la mente. La lingua sta ferma, ma la bocca si riempie di poesia. Prendimi, mostrami il viso e dimmi, strappati il cuore dall'anima. Dillo all'anima che il tuo viso di fuoco brucia come la fiamma, la falena. Guarda le mie labbra secche, bagnale, raccoglimi da terra. Raccogli da terra il tuo sacrificato, prendimi. Non abbandonarmi perché non sono ricco. Prendi per argento le mie lacrime, per oro il colore del mio viso. Sfiora la cetra e suona, non piangere se ti manca il liuto e il suo legno caldo. Prendi il mio amore per fuoco, il mio cuore per liuto, il mio corpo. Per scaldare il suo legno, coprirei con l'oro giallo del mio viso malato, il tuo torace d'argento. Ho il viso giallo, le labbra secche. Resta con me, Resta con me, vieni alla danza mistica, sfila quel saio di pietà e balla, non scappare, resta ancora, resta per la durata di un mio respiro. Lo stupore mi ha bruciato la mente. La lingua sta ferma, ma la bocca si riempie di poesia. Brucia la mente. Gli astri oramai allevano cafoni. Lucidità del vino. La palla dell'occhio è un chicco d'uva. Così il mondo adesso si piega ai miei desideri. Ora il mondo soddisfa i miei desideri. La luce del vino, luce dei miei occhi, il manto della cornea come buccia d'uva. Resta con me, vieni alla danza mistica, sfila quel saio di pietà e balla, non scappare, resta ancora, resta per la durata di un mio respiro. La luce del vino, luce dei miei occhi, la figlia della vite avvolta nel velo dell'iride. Lo stupore mi ha bruciato la mente. La lingua sta ferma, ma la bocca si riempie di poesia. Resta con me, vieni alla danza mistica, sfila quel saio di pietà e balla, non scappare, resta ancora, resta per la durata di un mio respiro. Lo stupore mi ha bruciato la mente. La lingua sta ferma, ma la bocca si riempie di poesia. Avevo mille intelligenze, è un bel modo di fare. Ma adesso che sono ebro e disfatto, la regola sarà strafare. La luce del vino, luce dei miei occhi, la figlia della vite avvolta nel velo dell'iride. La luce del vino, luce dei miei occhi, il manto della cornea come buccia d'uva. Avevo mille intelligenze, è un bel modo di fare. Ma adesso che sono ebro e disfatto, la regola sarà strafare. Portami il vino, ragazzo, perché da poeta ho mille fiducie nel supplicarti a mezzanotte e poi piangere all'alba. Adesso che sono ebro e soddisfatto, la regola sarà strafare. Adesso curo il mio dolore con quella pozione per il cuore che si versa nella brocca di Cina dalla coppa di Aleppo. Con quella pozione per il cuore curo il mio dolore. Per il tondo del tuo viso mi affranco dai giardini, perché infiamma nel campo come un papavero. M'inchino solo per passare sotto l'arco del tuo sopracciglio, perché l'animo degli emarginati è libero dal mondo. Ho rancore per la viola, perché si crede superiore ai tuoi capelli. Il papavero sale sul trono della rosa, mentre stringi in mano la coppa. Per il tondo del tuo viso mi affranco dai giardini, perché come un papavero nel campo in fiamma. M'inchino solo per passare sotto l'arco del tuo sopracciglio, perché l'animo degli emarginati è libero dal mondo. Vago nella notte dietro la fiamma del tuo viso. È giusto che piangiamo insieme, io e la candela, al mattino. Il mio pianto del mattino, come il mozzicone della candela, sciolta, spenta al mattino. Perché noi bruciammo. Perché noi bruciammo, ma il nostro idolo non sa che farsene di noi. Perché non pensa al giro di sguardi e non anela al giardino. Perché noi bruciammo, ma il nostro idolo non sa che farsene di noi. Perché non anela al giardino degli sguardi in giro. Perché noi bruciammo, ma il nostro idolo non sa che farsene di noi. Perché non pensa al giro di sguardi e non anela al giardino. Perché noi bruciammo, ma il nostro idolo non sa che farsene di noi. Perché non anela al giardino degli sguardi in giro. Abito all'angolo del tuo sopracciglio. Occhio dal cuore nero, discepolo dei miei crolli. Dammi una coppa piena, brinda alla salute di un maestro senza convento. Occhio dal cuore nero, allievo della mia disfatta. Bevi sangue e siedi silenzioso. Il tuo cuoricino delicato non sopporta l'urlo di chi chiede soccorso. Non sono il solo a subire la violenza dei tuoi capelli. Chi non è marchiato a fuoco dal tuo nero? Dammi una coppa piena, brinda alla salute di un maestro senza convento. Occhio dal cuore nero, allievo della mia disfatta. Abito all'angolo del tuo sopracciglio. Occhio dal cuore nero, discepolo dei miei crolli. Occhio insolente, occhio di narciso, sboccia insolente il narciso del tuo occhio. Occhio insolente, occhio di narciso, l'alito del mio cuore appanna lo specchio del tuo viso. Se mi inchino, se mi inginocchio davanti ai tuoi piedi, non volermene, il miscredente d'amore, o idolo, è senza peccato. Occhio insolente, occhio di narciso, sboccia insolente il narciso del tuo occhio. Occhio insolente, occhio di narciso, l'alito del mio cuore appanna lo specchio del tuo viso. Per 40 anni ho sofferto dolori e alla fine la mia buona regola era nelle mani del vino di 2 anni. Infiamma il cuore del mistico, la brezza del giardino, schioccano fiamme dal ventre del papavero. La sacca di muschio che volevo dalla sorte allignava tra i capelli di quell'idolo dai capelli muschiati. Per 40 anni ho sofferto dolori e alla fine la mia buona regola era nelle mani del vino di 2 anni. Infiamma il cuore del mistico, la brezza del giardino, schioccano fiamme dal ventre del papavero.